father name was Elijah, and my name is Ragnar Pizer. Andale carrete. Ah, buonasera a tutti, buona Pasqua. Noi eravamo qui, ci siamo fatti il pre-inizio trasmissione guardandoci uno sketchettino di Iannacci con Cochi e Renato che fanno questo sketch sul flamenco. Chi vuole andarsela a cercare su YouTube. Bene, reduci dalle feste, ma presenti anche stasera. Non ci ferma, non ci ha fermato la lasagna, non ci ha fermato i vari animali vari infornati. Siamo qui fino alle 22:30, come tutti i lunedì. Inizia il Bonduccio che, ad occhio, mi sa che farà un po' un tributino al Califfo di sicuro, perché insomma Duccio è sempre stato grande fan e non so se ha qualcosa anche di Iannacci dietro. Comunque facciamo un piccolo tributo e va così. Poi dopo ci abbiamo da dirvi un po' di cose per che usciranno sul blog, ma ce lo teniamo per dopo. Facciamo andare Ducci. La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio, ho aspettato tanto per vederti, ma non è servito a niente, niente, nemmeno una parola. L'accenno di un saluto, ti dico arrivederci, amore mio, nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso. Domani torno in pista, ti perdo e perdo tanto, ma sai la rabbia mia, io se non corro muoio di malinconia, del rischio di crepare me ne posso fregare. Questo mentre tu sei perfetta come l'amore detta, io sono fatto male come la smania vuole. Quindi se mi stai attorno 24 ore al giorno, donna fin troppo seria, mi fai mancare l'aria. Dovrei farti partire ogni tanto, ma non ho il coraggio. Altre volte l'ho fatto, sei andata e per me è stato peggio. Dovrei prendere fiato in tua assenza, cambiar compagnia. Contro l'ansia e la mia insofferenza, almeno in teoria. Ma tac. È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Amore, nella necessità, nella difficoltà, zitto zitto, sto sempre zitto, zitto zitto zitto. Amore, nella tua scemità, nella tua nullità, sto sempre zitto, zitto, zitto, zitto, zitto, zitto. Sei repellente, Lisa, però mi piaci così. Sei sciabolente, Lisa, però mi piaci così. Tenente Lisa, però mi piace così, così, così, di più, perché con te io faccio zan, zan, zan, zan le belle lane, zan le belle lane, zan, zan, zan, zan le belle lane, zan le belle lane, zan. Lisa, però mi piace così. Sei puzzolente, Lisa, però mi piace così. Nulla tenente, Lisa, però mi piace così, così, così. Di più, perché con te io faccio zang, zang, zang. Zang le belle rane, zang le belle rane, zang. Thank you. dal mio sentire disgraziato. Io lo so perché scappi, io lo so perché hai anche paura di scappare, ma ascolta disgraziato, ascolta non scappare. Io ti dirò esattamente come stanno le cose. Ascolta disgraziato, ascolta non scappare. Questa non è una storia d'amore, d'amore come le altre. Questa è una storia che puzza di sporcizie, di sudato, di bagnato, di lustrini, di varietà. E poi di televisione. Ehi, la televisione rimane sempre accesa anche quando ti dovessero staccare. La cannetta dell'ossigeno a piacere. La manopola del gas che avevi acceso mezz'ora prima, ma lei non ci aveva mai creduto, non perché fosse superiore, ma perché aveva capito cosa fosse l'amore. L'americana, l'americana, lei sì ci aveva. Sei mia, e quando dico mia dico che non vai più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me. Thank you.

sembra un angelo caduto dal cielo. Come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese. Fair play, mi vorrebbe come lei. Io non ho futuro, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del cambiare e bruciare tutto. Non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale. Sono già le tre. Io qui dentro fumo e sto in silenzio, tanto ormai nessuno pensa a me. Fino a ieri ero una di loro, e tra loro che trovai la voce di Silvi. Basterebbe fare un po' di scale, ma perché se là non c'è più lei? Nella mente non rimane niente, solo il nome di Silvi. Solita strada bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade grigie come il fumo, in un mondo di luci sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo. Eccoli, dai, eccoli. Carri nei campi, agli aerei nel cucù, cielo, e non capirci niente, aver voglia. È brutto cantare sopra, cioè parlare sopra Tenco comunque. Sì, lo so, lo so. Il biga ci sta screcciando. Ci sta screcciando, va bene. Screcciare va bene. Screcciare sì, parlare no. Parlare no. Ora non c'era la strumentale, via. Ci si arrangia così. Si deve fare. Mi sono scordato di prendere la strumentale di Franco. Ha lasciato a casa i 12, sì, con la strumentale. Con la strumentale, il singolo, la strumentale. Il remix di Pit Rock. Chiaro. Che era meglio dell'originale. È chiaro. Come sempre. Come sempre. C'è sempre il remix di Pit Rock che è meglio dell'originale. È meglio dell'originale. Allora, io volevo dire una cosa. Siccome, approfittando delle ferie pasquali, sono finalmente riuscito a registrare il mix che c'avevo in cantiere da 3 mesi a questa parte. Quindi in settimana metteremo sul blog il 5º capitolo della saga che ormai non vede, non si vede la fine. Comunque Tommy, ti posso dire una cosa, non gliene fregava nulla a nessuno. Lo so, bisogna passare tempo, questi 5 minuti però bisogna passarli in qualche maniera, scusa. Vabbè, là. No, a parte le bischerate, quando è che lo metti su? Non lo so, in settimana. In settimana. Si guarda. Comunque, Pupati Placeholders, il 5º volume. Il 5º volume, quindi state pronti. Il 5º volume, il 4º non esiste, o perlomeno, cioè, no, non è mai uscito come 4º. Sarebbe stato il mix quello per soffrito. Comunque, contiamolo come 4º. Quindi siamo passati al 5º. Come nelle camere d'albergo che manca. Manca un numero. Che manca la stanza numero 13. No, no. E il piano numero 13. Comunque, insomma, settimana ci sarà questa news. Ok. Così per rinverdire un po' la sezione mix, è ferma da un po' di tempo. È ferma da un po' di tempo, sì. Anche i beat, la sezione beat, ma stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi. Quindi state sempre attenti. Buttate, riscaldatevi intanto e andate a scaricare le vecchie cose su ragnampaisa.net. Andate a scaricarvi i vecchi mix, i vecchi beat tape. 13, sì, Shelby, ho detto 13. 13 che? No, la Shelby mi manda un messaggio con scritto 13. E io ho detto, sì, ho detto 13. La stanza numero 13. Vabbè. Un saluto a Shelby, visto. Certo. Hello. Biga sta già suonando, quindi lo possiamo lasciare andare. Potrebbe anche fare andare Biga, dai. Certo. Spread out my wings and I take the world high. Peace to the fan mag that again shot job on Tyshawn and my man I too. And all my other clan who reside in the zoo. Got the celebrated oatmeal broadcast crew. Most def gon' keep it naked like Oomfu Foo. Words in here to the tape like crazy glue. So when they bounce out of speakers, they stick to you. The way that I communicate is non-typical. But I level like a 3D visual. I hold the mic extension, exhibit level and dimension. I radiate the space like an upright bass. Your son Ali Cruz lace it escape with no trace. Sound official like the finish time at a horse race. Here to put it in place for the 9-0-6. Most def set the pace, make it fair, give chase. Raise your hands in the air, everybody get with it. Universal magnetic b-boy, scientific, scientific. And you don't stop, it go on to the rhythm, you don't stop. Something wrong. Sweet little woman, can't you see? inside. Stay by me, woman, for the rest of my life. And as I think of you more every day, there's only one thing, girl, that I can say. And that's, girl, I think the world about ya. You're a woman, a little girl's dream. What a dream. You seem so weak sometimes to be so strong. You make a man like me find a need to belong. No words can say how much I need you so. But all my love, I want the world to know. Then girl, I think the world about you. I'm always thinking of you. Oh, girl, I think the world about you. I'm always thinking of you. Strings on. cause I knew I'd get a kiss. Always got mad when the class was dismissed. But when it was a session, I always had a question. I would wreck my hand to make a stack up to my desk and help me with my problem, for it was never much. Just a trick to smell a scent or sneak a touch. Oh, how I wish I could hold her hand and give her a hug. She was married to the man, he was a thug. His name was Lee, no mistake. He picked her up roughly at 3 o'clock, but I was on the job. Yes, indeed, he wrote graffiti on the bus. I carved his name to ride a bus with my name last. On the looking glass, seen me yesterday, but still I had to let her pass. She is passing me by. Now when I dream of fairy tales, I think of me and Shelly. Cause she's my type of hype and I can stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad and I can be her nigga. But all I can do is stare back. It's kids we used to kiss when we played through the day. Now she's more sophisticated, highly intimidated, not at all overrated. I think I need a prayer to get an unforgiven. It looks rather dry. Just a twinkle in her eye, just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping out, trying to stop the stride. Cause I can't have no more. That's it. And I must voice my opinion. Can't be pretending she didn't have me sprung like a chicken. Chasing my tail like a doggy. She was like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good downside, she had a man. He was a Rudy Tooty, was a Nick. She told me soon your little birdie's gonna fly. She was a flake like corn, and I was born not to understand. But let the past, I hope to be a better man. Shanks, knives, guns, and razors. All hell's what I raises and gauges my phases. I'm on top of stages, rewriting the pages for ages. I wage it, shit war when I rage it with shots from my phrases. Sort of like a medley of deadly, steadily, readily targeting your chest so that blood will run fresh. Who straight out of your artery when you're still a part of me? The heart of me, the heart of me. That's how you get me started. His ops, my love, my life. My strike, my girl and my wife. So ain't throwing lefts and rights. When flakers try to shake, I'm picking them, sticking them, nicking them down. No okie dokers, go for broken croak and smoke. Now how that sound? Cause I despise a jigger who figure he's bigger than my baby's figure. So I figure that if do, I do the nigga. Spattering vertebrae and bones, rip on my songs. Cause homes, I got a Jones, that's destruction to the bones. To the judge, that's how I did them. You know how I did them. To the head of the fuck, I slid them. You know how I did them. To the depths, how I did them. Ogni fiacco in G, tipico finto, caccioso, ma qui persi dall'artefice del non veneri. Conosci Snap, se sputa quel qui chi c'è. Sono smisto, frista di bella. Ti rimando a scuola col microfono nella cartella. Stilo, dopo al chilo, quando sfilo nessuno può negare che vi il pelo. I messaggeri col vocabolo non si tocca, non si ciuccia, sta cuccia, tu sei il diavolo, sei il diavolo. E come sopra suona bene, Chico, io serio più di un tot, profondo come Jacques Cousteau nell'oceano. E dal momento che mi alleno è garantito, non mi puoi tirare scemo. Quindi levati dal palco, mo è meglio che scendi. Sfida sto guaglione le mazzate che prendi. Chico Snaps, bella lì. Sentimi sul loop, yes, yes, ah, oui, oui. Suddito del funk, cicci, e mon sai. Sopra questo beat da crociera, vai. Quando Vesnas il meglio in cicci, piange. Definisco il suono di un guaglione, spinge. Io rimo a 30.000 volte e poi muori. Faccio il mio guaglione in fase. Yeah, bam, bam, bam, hey, hey, what's up, yeah. We was like that, you know. Yeah, and I just got laid back. Yeah, I'ma just sit in here for a couple hours. Man, don't sweat it, yo. We gonna catch some stuff, dude. I don't know, I'm kinda tired. Nah, we got a basket. We gonna fill this basket before we go, yo. Alright, bro. Cause that other picture's back. It took a second to register up in my brainia, my dome, my head, my skull. Enough, it was time to do some talking. I had to creep through the hound dogs that the sea, in the sea, that is, in the you sea. You know there's other fish in the sea, that is. Lillo, lillo, lillo, lillo, lillo, lillo. In the sea. In the sea. In the sea. Insomma? In the sea. In the sea. In the sea. Senti, a parte 0557399933 che è il nostro numero di telefono e rido, dobbiamo dire di un po' di serate. No, dobbiamo niente, prima di tutto. Cioè, dobbiamo nulla. Perché nessuno qua tira fuori il becco di un quattrino. Quindi io non devo un cazzo. Allora, no. Eccoci. Eccoci. Perché, allora. Fucilati fuori. Allora, gradiamo. Gradiremmo. Gradiremmo dire di alcune serate. Sì. Se, yo. Sì. Ci permettiamo e partiamo da giovedì. Questo giovedì, questo che è il 4. Yo, giovedì 4, che succede? Giovedì 4, Fresh Yo Fresh Showcase. Yo. Ve l'avevamo già anticipato nelle settimane scorse. Comunque, ribadiamolo. Al Full Music, dove? Al Full Music, Piazza Puccini, Piazza Puccini, passa il ponte, Runner Pizza sulla sinistra, gira subito dopo a sinistra discesa, vai, vai giù tutto. Appena arrivi in fondo alla discesa devi tirare i freni a mano, perché claro, sennò se no ti si fa freno entrare a mano. Chiaramente devi essere in terza a manetta, tiri freno a mano e parcheggi. La macchina si parcheggia da sola. E you lì know. C'è quello che ti fa il biglietto di Full Music. Entri dentro e ci trovi la serata Fresh Show, che vedrà partecipare Colossius, God Bless Computers, Mille Lemmy, Dre Love. Dammene se tu nai, dammene se tu nai. Tu lo sai. Tu lo sai. Vai. Che ce li hai, vai. Dai. Yo. Che le. Ah, quanto ti piace quella, oh. Al loop. Dammene se tu nai o dagnene se tu nai. E Dre Love. E Dre Love. E te no. E io, ah, e io sì. No. E io sì. E biga. Questo succede giovedì, questo, cioè il 4 aprile al Full Music. Poi questo. Poi il venerdì, che è il 5 aprile, Latex. Attenzione. Latex più, Latex plus, featuring Bring the Noise, presentano Jack Master al Tabasco Club. E dai, a Firenze, eh? Quindi Jack Master al Tabasco. Il Tabasco è nella viuzzina dietro. Dio, ma hai spento la musica? Pigia play. No, io non ho fatto nulla. Che t'ha combinato? E le basse. Dio, buono. Io di solito. Tu sai te che sono abituato. E perdi il ritmo. No, senti. Ah, no, è che l'ho partita ora. Non era colpa mia. Quindi Jack Master, gran DJ, super DJ inglese. E questo venerdì 5, mentre sabato 6, leggo che Decibel 20 e tutta un'altra serie di persone presentano al Viper Club di Firenze Blauan DJ set e Nathan Fake. Yo! Questo succede sabato 6 al Viper, un quindicino ridotto in lista, 18 intero, quindi bei sordi. Dare il lesso in the face. se volete andare al Viper. E succede questo il 6. Ma comunque, a parte queste serate, la più importante è giovedì sera al Full Music, festa Fresh Show. Lì ci dovete venire per forza. Quanto bisogna scuscire? Brother. Quello si decide quello, lì per lì. Quello cioè, sicuramente i primi pagheranno di più, poi via via c'è gente sempre di meno. Cioè, gli ultimi entrano gratis a manetta. È la solita vecchia storia. Birrini? Birrini solo. Aiosa. Aiosa. Senti che storia? Yo. Sento tipo Moondog. Remixon. Questa era Moondog. Boh, vabbè. Sarà Ichelè, lo scoprite. Chiediamo dopo al Bon Colossus. Lo scoprite comunque, se no domani in tarda sera, in tardo pomeriggio, prima serata, trovate la puntata su ragnampaisa.net con la playlist as usual. Yo. Lasciamo andare Colossus per il suo set. drug, you ain't shit. Your money ain't shit. Your lab ain't shit. Your rings ain't shit. Your gear ain't shit. Your shoes ain't shit. Your kicks ain't shit. Your whips ain't shit. Bobby, you ain't shit. Nigga, I'm the shit. You ain't shit. Your daddy ain't shit. Your brother ain't shit. Your money ain't shit. Your lab ain't shit. Bobby, you ain't shit. Your rings ain't shit. Your gear ain't shit. Your shoes ain't shit. Your kicks ain't shit. Your whips ain't shit. Nigga, I'm the shit. You ain't shit. Your daddy ain't shit. Your brother ain't shit. Your money ain't shit. Your lab ain't shit. Your rings ain't shit. Your gear ain't shit. Your shoes ain't shit. Your kicks ain't shit. Your whips ain't shit. Nigga, I'm the shit. What the fuck y'all bros talking about? Fuck out my house. Fuck, grab you by your hair and slap dick to your mouth. Bob Digi, yeah, you know who is he. Girl, I fucking slave trade your ass like Kizzy Kintay. Well, wait, fuck you, motherfucker. You wish you could fuck. Bitch, all you can do is dick suck. Your ass can't fuck, that's why your wife fuck your bitch. Drunk, you don't clean or press my jeans. You don't scrub or wash clothes or buy food or make any cream in this bitch. You don't read to the seas. All you do is watch TV and smoke weed. Get your nails done and feet scrub the hair weave. Sleep all day, eat, gain weight, can't breathe. Talk about you gon' leave, then bitch leave. What the fuck you waiting for? Hit the door, ain't taking this shit no more. Slipping on my cream on Gucci, Bennies and Coach. Before you move to my lab, bitch, I ain't never seen a roach. Stains on my carpet, bathrooms more like a fish market. Take all the space in my closet, where the fuck's your logic? Disrespecting my old earth, aborted my childbirth. And every day I catch my credit card inside your purse. You can't speak a sentence without a curse. Talk about you gonna be a nurse. Bitch, to be a nurse, you gotta go to school first. When I first met you, you was a hoe. I tried to reform you, bomb you, warn you, and teach you, but couldn't reach you, and you still a hoe. Your father said you was a hoe. And when you leave me, bitch, you gon' be a hoe. Selling meat and gargoyle feet. I'd rather beat my meat than baggy ass pussy a starving dog wouldn't eat. Started with the body of a model. Pussy tight as a pharmaceutical bottle. And you can swallow a whole avocado and 2 4-ounce bottles. To the end of the world, which one will follow? Then when I fuck you, the shit echoes, cause your pussy is so hollow. Turn your fat ass sideways, just stress mark. Look like the US highway. Fuck a nigga every Friday. Talk about busting nut. Bitch, I bust your guts. You know why I come so quick. With that wide ass pussy and noggy tits. I'm trying to get this shit over with and go to sleep. But when I'm with my real freak on the weekend, baby, we fuck for 2.5 hours to 3. You better study the one to fuck Allora bombardoni. Bombardoni. Si parla di podcast di Hiroga? Si parla di podcast di Hiroga. Andate, cioè dovete andare. Dovete volare. Volare assolutamente. Ormai aspettate le 22. Senti che storia. Sandro. Dovete volare alle 22:30 perché ora sentite il set di Tommy. Quando attaccano le trombette andate su www.strettoblaster.com. Bella Fiume. Bella Fiume, un salutone. E vi andate ad ascoltare il podcast, The Blast Podcast numero 26, che ha fatto qui Roga in esclusiva per Stretto Blaster. Comunque date una ravanata se non lo conoscete, perché c'è stato tutto restyling, cambio di piattaforma, prima era Blogspot, adesso da un po' ha fatto tutta la grafica nuova del sito Fiume, e quindi quale migliore occasione per andarci. Perfetto. E sentitevi il podcast di Quiroga, che è una bomba, che lei è l'owner, ricordiamolo, è della label, l'owner di Really Swing. E infatti, se non mi sbaglio, potete in questo podcast potete sentire anche, siccome suona comunque tutto materiale suo, materiale edito e materiale inedito, e ci sarà, ci sono anche delle, dei brani che saranno nella prossima uscita di Really Swing, vero? Nella prossima uscita, che sarà il volume 6. Il volume 5, vabbè, lo dovreste sapere a memoria, ma il volume 5 è degli Eteri. No, noi ve, la, cioè, ve l'abbiamo suonato fino allo sfinimento. Se ancora non ce l'avete, cercate in qualche negozio. Se è rimasto comunque tutta la roba Really Swing, esce tutta in 10 pollici in edizione strettamente limitata. Yo! E poi c'è una simpatica intervista dove potete comunque conoscere il personaggio, approfondire la storia, che è interessante. E comunque Quiroga, scena Napoli. Quiroga è uno che non vuole noie, però sulla produzione non vuole zero noie. Quindi un salutone a Walter, un grandissimo abbraccio, e andate, ricordiamo, andate anche su ragnampaisa.net, nei beat a confronto, andate a scaricarvi anche il beat, che il beat tape che ha fatto lui in compagnia di Futura, lo trovate lì, ragnampaisa.net, beat tape release, beat a confronto. E mi sto sciogliendo su Tommy, lascialo andare. Lasciamo andare, lascio, Tommy. Lascio andare. Restate con noi fino alle 22:30. Dopodiché, The Blessed Ferrara and His Magic Butterfly. Think I saw? Anna saw. Tenastlin. Dana Xavier Yimasgan. Sata Amasagana. This is it. Originally. Thou shalt not steal, said the Almighty. The King of Kings is here. Rules eternally. Honor and majesty before him. A false witness shall not be unpunished, saith the Lord. To eat from thine own vineyard is sweet to the soul, but to steal from thy brethren is bitter to the belly. Behold, how good and how pleasant it is. for Jack Duran. Yeah, yeah, yeah. His majesty is coming now. His majesty is coming now. Rejoice, I want you, I want you. My mama always tell me that Babylon is a wicked, wicked, Babylon eat right on dreadlock, right on Rastaman, in the Bible.